Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Dopo l'apertura di dialogo tra CGIL e Confindustria, le valutazioni degli altri sindacati, tra poco in diretta all'intervista con il segretario della UIL. Berlusconi torna all'attacco sulla libertà di informazione, barzellette catto comuniste, i rapporti col Vaticano eccellenti. Le ferrovie rinnovano il parco treni per i pendolari, 2 miliardi di euro per l'acquisto di nuove carrozze e per la ristrutturazione di quelle vecchie. La sorpresa del campionato di Serie B, il Frosinone, guidato dal gemello calcistico di Kakà, non gioca come lui, ma hanno passato una vita insieme. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione e benvenuti a questa nuova edizione di GR24 in questa prima giornata del palinsesto autunnale di Radio 24, un GR che durerà fino alle 13.30 e dopo ci sarà Stefano Pistolini con la sua nuova trasmissione Buongiorno America. Edizione del GR che apriamo con le aperture di dialogo che ci sono state ieri a Cernobbio, al workshop Ambrosetti tra la CGIL e Confindustria e anche con un lungo incontro tra Guglielmo Epifani, segretario generale della CGIL, e la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Ve ne abbiamo dato ampiamente conto e adesso sentiamo le valutazioni anche delle altre parti sociali. Buongiorno a Luigi Angeletti, segretario generale della UIL. Buongiorno a lei. Allora, una sua prima impressione. Beh, il fatto che la CGIL torni a manifestare la voglia e l'interesse a ricostruire la posizione dopo la sua decisione di non accettare l'accordo sul modello contrattuale può essere sicuramente un segnale positivo. Ci auguriamo che dalla disponibilità si arrivi alla sostanza, e la sostanza è riconoscere che abbiamo fatto un ottimo accordo e che questo accordo può essere la base per firmare i contratti e quindi per far sì che finalmente arrivi qualche aumento sulle buste paga dei lavoratori. Allora, accennava lei, Angeletti, all'apertura di questa fase di rinnovi contrattuali. E su questo noi abbiamo preparato un servizio sentendo anche un paio di opinioni politiche. Ascoltiamolo. La partita si gioca su numeri non enormi, ma è davvero cruciale. Sono infatti 23 i contratti in attesa di rinnovo per un totale di circa il 10% dei dipendenti sotto contratto nazionale, 1,7 milioni su 55 accordi di categoria in Italia oggi in vigore, che regolano il trattamento economico di più di 11 milioni di lavoratori. Ma i prossimi appuntamenti sono importanti, a partire da quello del rinnovo per i metalmeccanici, e ci sono anche quelli di alimentaristi, chimici, comunicazioni, agroindustria, cooperative, commercio e terziario. Cesare Damiano, responsabile lavoro del PD, spiega che cosa ne pensa della stagione di contratti che ormai è aperta. L'accordo quadro siglato dalle parti sociali, ma non dalla CGIL, nel momento in cui si traduce in applicazione concreta, settore per settore, categoria per categoria, nel rinnovo dei contratti nazionali, può trovare, come è stato per alcune categorie, le sue convergenze nell'applicazione, che possono superare, come si dice, i problemi che sono stati all'origine della divisione. Secondo Giuliano Cazzola, deputato PDL per i rinnovi contrattuali alle porte che dovrebbero concludersi entro la fine dell'anno, ci sono diverse prospettive. I metalmeccanici sono un po' messi persi perché lì c'è una posizione anomala della FIOM che ormai è diventata una posizione storica, ma è molto interessante invece quello che si faranno negli altri contratti a partire dagli alimentaristi. Mi pare che la mediazione che si è trovata recentemente negli alimentaristi dimostri appunto che si va incontro in qualche modo a quelle che sono le esigenze della CGIL di avere rinnovi contrattuali più robusti. Anna Marino, GR24, il sole 24 ore. Questo è il quadro della situazione. Dunque, Angeletti, lei ha l'impressione che in qualche misura l'accordo di gennaio possa essere depotenziato da questa nuova fase di rinnovi, vuoi per la situazione economica, vuoi per la necessità di tirare dentro la CGIL? No, assolutamente no. Penso anzi che i contratti si fanno per i prossimi 3 anni e quindi la contingenza economica non ha praticamente nessuna rilevanza. Dal punto di vista della sua efficacia, cioè del fatto che i contratti devono essere fatti, penso che tutti quanti finalmente si renderanno conto che è giusto aver fatto quell'accordo, perché attraverso quell'accordo rinnoveremo i contratti. La CGIL a suo tempo si è sottratta denunciando che quell'accordo era troppo svantaggioso per i lavoratori. Adesso, se finalmente rinviene da questa posizione, e cioè riconosce che anzi quell'accordo è stato il miglior accordo possibile in questi periodi, in questi anni, la cosa non ci farà che piacere, e penso che i contratti si rinnoveranno secondo quelle regole. Ad essi parteciperanno per alcune categorie anche la CGIL, in altre non credo. Avremo quindi un atteggiamento e una partecipazione della CGIL non omogeneo, ma così è il mondo, e questo è il meglio che possiamo ottenere in queste situazioni. Quindi io penso che quell'accordo verrà applicato, così come sono convinto che verranno smentiti tutti coloro che prima dicevano che non si sarebbe potuto fare, e verranno smentiti adesso coloro che diranno che non si potrà applicare. Grazie dunque a Luigi Angeletti, segretario generale della UIL, per essere stato con noi. E noi passiamo a parlare di politica, una giornata politica dominata, almeno in questa prima fase, dalle parole del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, intervenuto di prima mattina in una trasmissione di Canale 5, Mattino 5. La cronaca di quel che ha detto dal nostro Vincenzo Miglietta, in diretta da Montecitorio. Vincenzo. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Clima politico decisamente acceso, nonostante qui in Parlamento l'attività ufficiale inizi solo la prossima settimana. A tenere banco sono ancora quindi il caso Boff, il ruolo della stampa e la sua libertà, i rapporti tra governo e chiesa. Su tutto questo, lo ricordavi da studio, è intervenuto a Mattino 5 il Presidente del Consiglio Berlusconi. Il Premier ha rigettato la tesi che in Italia la libertà di stampa sia a rischio, è una barzelletta, ha detto, di questa minoranza comunista e catto comunista che detiene la proprietà del 90% dei giornali, è invece in atto contro di me, ha aggiunto Berlusconi, una campagna eversiva, una feroce campagna che punta alle dimissioni del governo e del Presidente del Consiglio. Il Cavaliere ha ricordato poi il grande apprezzamento di cui gode, ve l'ho già, ma spiegato, verso il 70% dei consensi. Il capitolo dei rapporti con la Chiesa sono eccellenti, ha ribadito Berlusconi, e saranno consolidati a partire dal biotestamento, ma sentiamo su questo il Premier. I rapporti del governo e i miei personali con chi guida, direi con prestigio e con autorevolezza, la Chiesa Cattolica sono eccellenti da sempre, sono stati alimentati da un dialogo continuo e tali continueranno ad essere. La difesa che il nostro governo ha compiuto di alcuni principi basilari di civiltà, che sono la base della dottrina cattolica, principi come la difesa della vita umana, la difesa della famiglia, sono lì a dimostrare questa eccellenza di rapporti tra il governo, tra il nostro governo e la Chiesa. Brevemente, Vincenzo, altra questione sono i rapporti interni alla maggioranza. Sì, rapporti che continuano ad essere articolati, ricordiamo però che tutto è figlio e deve essere interpretato in funzione del braccio di ferro in atto nel centrodestra per la scelta dei candidati per le regionali della prossima primavera. Da segnalare allora oggi l'affondo di Bossi Affini, il Presidente della Camera più volte aperto al voto nelle amministrative agli immigrati regolari. Oggi in un colloquio riportato dalla stampa il leader della Lega darebbe del matto Affini: anche noi, è la tesi di Bossi, vogliamo aiutare gli immigrati ma a casa loro. Se questo il Presidente Fini non lo capisce, dice Bossi, è condannato a perdere altri voti. È tutto. E grazie Vincenzo Miglietta in diretta da Montecitorio. Noi passiamo alla cronaca. È stata una nottata di incendi ad Ischia ed è ancora una giornata di incendi a Genova. Dunque partiamo dal capoluogo ligure. Il fuoco non si arresta, in meno di 24 ore ha già divorato 250 ettari di pascoli e pinete e più volte ha lambito le case dei quartieri di Quarto e Nervi tra panico e sgomberi. Il Monte Moro ora è un paesaggio lunare sovrastato da una nube di fumo, mentre in città si respira cenere e fuliggine. Pochi dubbi sull'origine delle fiamme, incendi dolosi, dicono i vigili del fuoco. Nella notte il fuoco si è infatti sviluppato su fronti diversi. Due pompieri e un volontario sono rimasti feriti in modo non grave. Le fiamme hanno distrutto numerosi ripetitori di radio e TV. Per coordinare l'emergenza in prefettura stamane è stata istituita un'unità di crisi, disposto un piano di pattugliamento straordinario delle alture contro i piromani. Alle operazioni di spegnimento partecipano Canadair ed elicotteri, squadre di rinforzo sono giunte anche da Emilia e Toscana, ma sul fronte degli incendi sono ore difficili anche in altre zone della Liguria, fiamme paura alle Cinque Terre, in Val di Vara, in provincia di Imperia, anche in questi casi in azione i piromani. Andrea Ferro, GR24, Sole 24 Ore, Genova. E la cronaca ci porta a parlare anche di influenza A, della nuova influenza. Questa mattina il ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini ha detto che esclude di nuovo il rinvio dell'inizio delle scuole, ma non il fatto che possano essere prolungate le vacanze di Natale. Ma su questa vicenda si sta facendo un po' troppo allarmismo. Sentiamo com'è andato il nostro sondaggio. Va bene la prevenzione, giusto essere informati, ma in Italia sull'influenza A si sta facendo troppo allarmismo. Ne sono convinti i nostri ascoltatori che hanno risposto al sondaggio di Radio 24. Oltre l'80% di chi ha cliccato sul sito radio24.it è convinto sul virus H1N1 rischiamo una psicosi di massa. Soddisfatto di come hanno risposto i nostri ascoltatori è Roberto Volpi, statistico sanitario, che da tempo denuncia gli inutili allarmismi. I cittadini italiani sono al fondo più realistici di quanto non siano i grandi commentatori nazionali, più avveduti. Io non voglio dire che queste cose non esistano, ma certamente sono gonfiate da grandissimi interessi economici. Bianco o Nero torna domani dalle 8.30 alle 9 e per votare basta andare sul sito radio24.it o ilsole24ore.com. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. E siamo ad una pagina dedicata al cinema, naturalmente parliamo della mostra di Venezia con la nostra inviata Marta Cagnola. Non posso dirvi se c'è o non c'è, dice Oliver Stone di Hugo Chavez, presidente del Venezuela, a cui ha dedicato South of the Border, film fuori concorso che verrà presentato questo pomeriggio. Certo è che qualche militare venezuelano è già presente al Lido e c'è una presenza massiccia di forze dell'ordine italiane. L'altro arrivo è completamente diverso, i paparazzi sono scatenati per George Clooney, che presenta fuori concorso The Man Who Stared Goats di Grant Heslow. E soprattutto sono in attesa di vedere se George è accompagnato da qualcuno oppure no. Ma parliamo dei film in proiezione. In concorso, questione di punti di vista del regista francese Jacques Rivette, con Sergio Castellitto e Jane Birkin. Applausi nella prima proiezione stampa per la storia di un manager che improvvisamente si invaghisce di un piccolo circo alla sua ultima tournée. Sentiamo Sergio Castellitto. Beh, un secondo appuntamento con Jacques Rivette, col quale avevo già fatto Va Savoir. Lavorare con Jacques significa un po', come dire, tornare alla sorgente. Ho sempre questa sensazione, come se il cinema di Jacques per me è come se racchiudesse in un laboratorio una provetta con il DNA originario del cinema, il monolite fondamentale, un misto di luce e disperazione, che è, come dire, sono i due presupposti drammatici della Nouvelle Vague, poi alla fine, no? Tra gli altri film nella sezione Controcampo Italiano c'è Giovanna Mezzogiorno, che ricorda il padre Vittorio con Negli occhi, di Daniele Anzellotti e Francesco Del Grosso. Per lei una prova molto delicata. È stata fatta nel nome di un'idea molto grande, in fondo, cioè nel nome di un padre, di un uomo, di un artista che secondo me tanta gente aveva ancora sete di vedere. Sì, effettivamente non ho mai esposto la mia vita privata agli altri, non mi mostro, non parlo dei fatti miei, però questi sono un po' più che di fatti miei, cioè è vero che ci sono poi Super 8, è vero che ci sono molte parti in cui poi mostrano me piccola con mia madre, comunque, però è un po', in fondo è un po' una vicenda universale, questa vita così faticata in fondo, no? Così sofferta anche, così... con così tanta tenacia, coerenza, costanza, pagate però durissimo prezzo. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore, Venezia. Nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato dei rapporti tra CGIL e Confindustria in vista dei rinnovi contrattuali, abbiamo parlato di Silvio Berlusconi che torna all'attacco e abbiamo parlato anche di incendi. Adesso ci occupiamo di treni, non naturalmente per notizie come quelle che avete appena sentito nella viabilità, ma per parlare di pendolari. Chi viaggia in treno dei treni se ne lamenta spesso, insomma carrozze vecchie scomode, e le ferrovie tentano di porvi rimedio. Sentiamo come. 2 miliardi di euro per nuovi treni pendolari è il piano di investimenti in materiale rotabile più consistente mai avviato da Trenitalia. 840 tra nuovi locomotori e carrozze, tra cui 600 doppio piano, 150 elettrici. 2005 le carrozze ristrutturate. Il piano è stato presentato oggi nell'ambito della giornata del trasporto ferroviario regionale. Il presidente del gruppo Ferrovie dello Stato, Innocenzo Cipolletta. Era nostro impegno avviare un trasporto regionale che sia di sviluppo, e questo con i contratti che abbiamo siglato, che hanno durata di 6 anni e sono rinnovabili, ci consentiranno di investire. E proprio oggi si terrà il CDA delle ferrovie per una prima ricapitalizzazione parziale di Trenitalia per 600 milioni di euro. L'amministratore delegato Mauro Moretti. È una svolta perché dopo 3 anni di risanamento delle ferrovie finalmente passiamo alla fase degli investimenti, e quindi una fase nuova con un'impresa risanata che cerca di poter fare un servizio nuovo, soprattutto nelle grandi città, per i pendolari che nelle ore di punta dei giorni feriali vanno a lavorare. Alessandra Schepi, CGR 24 e Sole 24 Ore, Roma. Notizia di un attimo fa: un elicottero del soccorso alpino valdostano è precipitato sul ghiacciaio del Tulà nel massiccio del Monte Bianco, oltre 3.000 metri di quota. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13, ancora non si sa quante persone fossero a bordo. Ci spostiamo all'estero adesso, andando in Iran, con le parole questa mattina del presidente Ahmadinejad. Importante apertura al dialogo con gli USA del presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad. Durante una conferenza stampa a Teheran, il leader iraniano ha annunciato di essere pronto a discutere pubblicamente col presidente americano Barack Obama. L'occasione potrebbe essere offerta proprio dall'imminente incontro a New York per l'annuale sessione ordinaria dell'Assemblea Generale dell'ONU a fine mese. Nel dettaglio, il leader iraniano ha aggiunto che la Repubblica Islamica è disponibile al dialogo e a colloqui equi e corretti con tutti i paesi, ivi compresi quelli del cosiddetto 5+1. Tuttavia, Ahmadinejad ha puntualizzato che l'Iran non intavolerà mai discussioni sul proprio controverso programma nucleare, giacché, a suo dire, esso corrisponde ad un diritto ovvio e innegabile. Intanto continua il pugno di ferro contro gli avversari interni. Ieri il presidente ha silurato 2 alti funzionari del Ministero degli Interni. La ragione? Avevano filtrato notizie sui brogli elettorali nel voto del 12 giugno scorso. Adif Ali, GR 24 e Sole 24 Ore. E ora la storia di un gruppo di iraniani. Sono al 41esimo giorno di sciopero della fame gli abitanti di Ashraf, e alcuni versano in condizioni molto serie. L'enclave iraniana, appunto, sorta a nord di Baghdad, è da tempo sotto attacco delle forze di polizia irachene. Sentiamo. Stanno morendo le donne di Ashraf, muoiono di fame perché qualcuno si accorga di quanto sta loro accadendo. 41 giorni di sciopero della fame perché il mondo si interessi. Nel campo, sorto in Iraq 23 anni fa per dare asilo politico a dissidenti del regime iraniano, si rischia la vita. Il 28 luglio la polizia irachena è entrata nell'enclave iraniana a nord di Baghdad. Negli scontri che sentite sono morte 11 persone, centinaia i feriti, 36 arrestati. Sono loro a iniziare lo sciopero della fame. Poi si aggiungono gli altri. Ora il digiuno lo fanno quasi tutti gli abitanti di Ashraf, 3.400, e 1.000 di questi sono donne. Ci racconta così Shahrezad Sholeh del gruppo di donne democratiche iraniane. A dicembre 2008 protezione era nelle mani degli americani, e dal gennaio di 2009 c'era un cambio di protezione che hanno preso esercito iracheno. Che proprio noi da quel momento abbiamo paura, perché purtroppo nell'esercito iracheno, nel governo iracheno, ci sono molti infiltrati del regime iraniano. Noi avevamo paura, e da quel momento hanno cominciato, che non passavano le medicine, non facevano passare viveri. Noi chiediamo l'intervento di Nazioni Unite. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole. Sole 24 Ore. Un'altra notizia dall'estero, questa volta una buona notizia perché è stato liberato e ha lasciato l'Afghanistan il giovane giornalista afghano Sayed Pervez Kambakhsh, condannato a morte nel suo paese per blasfemia, per essersi occupato dei diritti delle donne. Il suo caso aveva mobilitato una campagna mondiale in suo favore. La notizia è stata data dal quotidiano britannico Independent e sarebbe stato segretamente graziato dal presidente Hamid Karzai. Torniamo all'economia, adesso per parlare di borsa, borsa che si è mossa sulla scorta di un'OPA lanciata e non riuscita. Deborah Rosciani, è così? Sì Simone, buongiorno. Allora, c'è da dire che complessivamente oggi è una buona giornata per le borse europee che reagiscono al dato sulla occupazione americana che è stato diffuso venerdì scorso, che sembra essere risultato meno peggio delle attese. Ma in realtà è stamattina il settore alimentare ad essere in vero fermento sulle piazze europee dopo l'annuncio che il colosso alimentare americano Kraft Foods ha presentato un'offerta da oltre 10 miliardi di sterline, 11,7 miliardi di dollari, per acquisire la concorrente inglese Cadbury, per intenderci quella della Schweppes. La proposta mira a dare vita ad un gigante mondiale delle merendine e dei piatti pronti, qualcosa come una società capace di fatturare 50 miliardi di dollari l'anno, e però è stata un'offerta rifiutata dal consiglio di amministrazione del gruppo britannico, anche se Kraft ha fatto sapere che probabilmente potrebbe anche migliorare l'offerta per convincere il consiglio di amministrazione appunto dell'azienda concorrente. Ovviamente la borsa si è mossa sulla notizia e anche parecchio. Le azioni di Cadbury sul listino inglese sono schizzate di quasi il 40%, quelle di Kraft sul listino invece di Francoforte sono in calo di circa 2 punti percentuali, ma non abbiamo ancora messo l'ultima parola sulla vicenda. Vedremo che cosa succederà, grazie Deborah Rosciani. Ora una storia tra la finanza e la politica, perché i derivati tornano a colpire un ente locale. Dopo Milano, Torino, tocca Genova, dove è esploso lo scandalo della SPIM, la società che gestisce gli immobili del comune, controllata al 100% dall'amministrazione genovese. Nel 2007 aveva siglato un accordo con BNP Paribas per l'acquisto di titoli derivati a garanzia di un mutuo di oltre 80 milioni. Si tratta di una bomba ad orologeria, scrive il Secolo XIX, che ha rivelato l'affare dopo che l'amministrazione guidata dal sindaco Vincenzi ha scoperto il contratto e denunciato tutto alla Corte dei Conti. L'impatto, infatti, si potrà misurare solo nel 2016 a scadenza. Intanto i nuovi amministratori di SPIM hanno accantonato 9 milioni e mezzo. L'aspetto che colpisce di più, tuttavia, è che il precedente sindaco Perico non ne sapeva nulla, perché l'allora amministratore della SPIM, Giorgio Alfieri, non ha mai informato il suo azionista. Paolo Piacenza ha sentito sulla vicenda l'assessore al bilancio Francesca Balzani. La scoperta è stata, ahimè, spiace dirlo, direi quasi casuale, perché la banca Paribas ha scritto alla nuova amministrazione SPIM proponendo una rinegoziazione di questo contratto, e da lì SPIM ha capito che esisteva un contratto di cui non aveva conoscenza. Mi scusi, a quanto ammonta l'effetto rimbocco virtuale determinato da questi derivati? Il contratto è uno, quindi è un derivato. C'è stato un momento in cui la perdita potenziale superava i 20 milioni di euro, poi c'è stato un momento in cui arrivava a 4, un momento 6, quindi la perdita virtuale, cioè la perdita che potenzialmente può generare questo contratto ad oggi fino alla sua data di scadenza, che è il 2016, ha avuto un andamento estremamente mutevole. Questo perché è un contratto che purtroppo, e questo poi il punto dolente, ha una natura non di pura copertura, quanto è stato, a quanto si è capito ad oggi, ma è anche venato di un intento speculativo. L'altra domanda è: come è potuto succedere una cosa del genere? Sicuramente è potuto accadere perché non c'è stata sufficiente attenzione, credo, nella valutazione di un prodotto che è estremamente delicato, quindi forse sarebbe stato opportuno un maggior coinvolgimento dell'azionista e soprattutto una considerazione effettivamente un po' più profonda del fatto che questo tipo di contratti hanno un andamento mutevole che può creare poi nel medio-lungo periodo delle criticità agli enti che li sottoscrivono. Ci avviciniamo alla chiusura. Lo sport, il calcio. L'Italia non convince, Lippi mercoledì contro la Bulgaria cambierà 4 titolari in una sfida da vincere a tutti i costi per andare in ottobre in Irlanda con un vantaggio rassicurante. Il commissario tecnico scommette in attacco su Quagliarella, tra i migliori sabato in Georgia, e poi oltre ai rientri di Grosso e De Rossi ci sarà spazio anche per Marchisio. Poi c'è il tennis, perché è davvero l'estate di Flavia Pennetta. La tennista brindisina è entrata stabilmente nella top 10 mondiale. Nella notte ha conquistato l'accesso ai quarti di finale degli Open americani, dopo la vittoria in 3 set con la russa Zvonareva, se la vedrà con Serena Williams, numero 2 al mondo e favorita per la vittoria del torneo. Ma noi chiudiamo questa pagina sportiva con una storia, quella del calciatore brasiliano Caetano Khalil, da gemello di Kakà a trascinatore del Frosinone. Uno in estate è passato dal Milan al Real Madrid per 67 milioni, l'altro ha lasciato Crotone per Frosinone per poco più di uno. Uno è il pallone d'oro Riccardo Kakà ed è famoso in tutto il mondo, l'altro è Caetano Khalil e fino a ieri lo conoscevano in pochi. Una doppietta a Lecce, due splendidi gol che hanno regalato al Frosinone uno storico primato in Serie B e da lui le luci dei riflettori. Caetano, in Italia da 2 anni, ha prima fallito al Siena, poi ha fatto innamorare Crotone in Serie C, ma il punto di partenza è stato lo stesso. Khalil e Kakà crescono negli stessi anni nelle giovanili del San Paolo, stesso ruolo, fantasista, sempre insieme in campo e fuori, tanti gol fatti ed inventati. Poi Kakà esplode e passa giovanissimo al Milan, Caetano si fa male e deve aspettare con pazienza la sua occasione. Dicono che sei venuto a Kakà, io c'è la mia filosofia, c'è il mio modo di giocare, c'è di lui. Poi ho conosciuto lui quando era piccolo, ma non è che per essere amici giocare uguale, sempre, però se giocassi uguale a lui, Frosinone punto di partenza per arrivare in alto a Khalil. Piacerebbe giocare con un altro suo caro amico, lo juventino Diego, compagno nella nazionale giovanile tanti anni fa. Il mio punto è sempre stare in alto, io non voglio fermare Frosinone, io devo arrivare dove mai doveva uscire, che era lì a top quando giocavo in Serie A in Brasile, quando giocavo in Nazionale in Brasile, nel settore giovanile. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Maria Piera Cece, con in regia Filippo Aureggi. Prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.